I am. I am not that I am. I am and we are. We, you and me. I am because of you. We're here together. There's no me without you. I am. I said there's no me without you. We are. We. I am. I am. Because we are. We are. I'm only possible because we are. You and me. We are. Woo! I am. You made me possible. I am. Ooh, I am. I am. I am because we are. Ciao a tutti. Ciao. Questa era Aja Monet che, come al solito, ci ricorda che possiamo dire io sono solo perché noi siamo. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, una rassegna radio dedicata alla musica, al suono, ma in maniera molto generale all'ascolto, all'atto di ascoltarsi. Oggi siamo qua con Alessandra Peluzzi e Clara Bortolotti, che saluto e ringrazio moltissimo. Ciao Lollo, grazie. Ciao Lollo. E Alessandra scrive e Clara recita. Quindi quello che faremo è leggere, lasciare che Clara legga, che dia voce a un testo di Alessandra. E per chi magari è la prima volta che ci ascolta, siamo alla seconda stagione di Club Chimera. Se durante la prima stagione ci siamo concentrate molto su il potere del suono, della musica, di creare ambienti, di creare spazi sociali, filosofici, emotivi in quest'area, quest'anno ci stiamo concentrando molto su anche sulle persone che vivono questi spazi. Alla domanda, che è stata un po' guida nelle prime puntate di quest'anno, di come fare a stare insieme. È una domanda a cui in qualche modo risponde il testo di Alessandra, andando a vedere anche le difficoltà dello stare insieme, soprattutto anche nei momenti in cui questo stare insieme viene reso difficile da un'assenza o da, come nel caso del suo testo, delle assenze. Ma prima di leggere il testo, volevo un po' parlare di noi, di come siamo arrivate qua, raccontare la storia di come ci siamo conosciute da lontano, oramai ai vecchi tempi del liceo. Mm-hmm. Vuoi raccontarci tu? Ok, allora parto col dire che sono terrorizzata, quindi tutto quello che dirò a partire da questo momento non mi potrà essere imputato, non so neanche più chi sono in questo momento. E allora, io e Lollo ci conosciamo dal liceo per un fatto che era successo al liceo Leonardo da Vinci nel 2015, ovvero che dopo gli eventi di Charlie Hebdo una nostra professoressa aveva affisso un manifesto in cui, dicendo che forte della libertà di espressione di cui Charlie si fa garante, e poi praticamente roba omofoba, cioè che odiava gli omosessuali, che i ragazzi erano stati traviati dal pensiero unico e via dicendo. E era stato molto divertente, non era stato divertente leggere il manifesto, però era stato dopo molto strano per noi studenti vedere una cosa del genere, e avevamo scherzato tra amici più che del problema dell'omofobia, del fatto che fosse ridicolo che lei avesse deciso di scrivere una roba del genere legata a Charlie Hebdo, cioè, e da qui l'idea di scrivere un testo altrettanto ridicolo da mettere, da affiggere accanto al suo. E così era nato un testo sulla pasta allo scoglio, e in cui anch'io, forte della libertà di espressione di cui Charlie si faceva garante, avevo parlato della pasta allo scoglio, che è la mia pasta preferita ancora oggi. E questa cosa inspiegabilmente è diventata gigantesca, cioè era nata soltanto dentro la scuola, e invece poi qualche giorno dopo, c'era stato il weekend di mezzo, e durante domenica mattina mi sveglio ed ero sul Corriere della Sera e un giornalista aveva parlato di questi fatti, E quindi poi così era successo tutto, così ci siamo conosciuti, poi sono entrata nel giornalino e poi siamo diventati... Pensate la mia versione della storia, che non conoscevo Ale, ma in realtà tutte e due scendevamo a San Babila, quindi vedevo questa persona palesemente queer che camminava davanti a me perché arrivava magari alla metro prima, dicevo secondo me dovremmo conoscerci, e poi in realtà non ci siamo conosciuti quell'anno, è successo molto dopo. Vabbè, comunque... Dopo aver letto questo testo scioccante, anche grande depressione pensare che una prof possa affiggere un testo del genere, il giorno dopo mi trovo un testo sulla pasta allo scoglio, incredibile, divertentissimo, che allo stesso tempo perculava la prof e aveva una tesi su anti-omofoba praticamente, quindi ho detto... Grande, Dea scesa in terra, grazie, ti adoro, fantastica. Forse la cosa più divertente però è avvenuta dopo, perché questa professoressa si chiamava Bortolotti e io avevo lanciato un hashtag che era Je suis la pasta allo scoglio, no? Je suis Charlie Hebdo, quindi... E per dimostrarle sostegno alle persone che stavano dalla sua parte lanciarono un hashtag che era Io sto con l'aborto, nel senso la borto... Era stato forse appunto molto più divertente del mio testo, alla fine mi hanno detronato così. Tra l'altro, i casi della vita, oggi ci ritroviamo a fare questa puntata con Clara Bortolotti, non imparentata con questa prof. Forse. Ci tengo a specificare. Vabbè, comunque questo testo ci ha portati insieme, nel senso ci ha fatti conoscere, quindi è già un primo esempio attraverso la scrittura di come facciamo a stare insieme, leggendoci, per esempio. E mi raccontavi prima che è stata la prima cosa che hai scritto. Sì, cioè scrivevo molto da bambina, poi come tutti l'avvento dei social e via dicendo ha fatto sì che tutto il mio focus andasse altrove, sui likes e questo genere di cose. E poi lì ero tornata un pochino, ho ripreso a scrivere, poi negli anni piano piano ha preso una forma migliore. Adesso non scrivo soltanto cavolate sulla pasta allo scoglio, ma anche... Cavolate sulle lesbiche. Moltissime. Cos'è per te scrivere? Abbiamo chiamato la puntata di oggi Pepita. Mi hai raccontato di questa metafora. Sì. Vuoi parlarcene? Sì, allora, Pepita è la versione, diciamo, abbellita di come in realtà nasce tutta questa idea, perché viene da Nugget, che è una cosa che è nata col mio migliore amico Giacomo Mutti, che nomino e che è in ascolto, credo. E vabbè, un giorno lui stava cercando di sedurre una ragazza greca, quindi stavamo lavorando su come scrivere i messaggi e arrivare al nocciolo reale delle cose. Abbiamo passato 2 ore ad architettare un messaggio di 4 righe su WhatsApp, però questo mi ha anche dato un insight su che cos'è per me, perché poi per tutti è diverso, però per me la scrittura, e mi rendo conto che il messaggio non è un buon esempio, però l'idea di arrivare a questo nucleo di verità, che è esattamente quello che vuoi dire ed esattamente quello che hai dentro, e poi trovare il modo migliore in assoluto per trasmetterlo in base al tuo gusto. E quindi da lì la metafora del nugget. Il nugget sarebbe questo nucleo, nugget, e poi... Nugget, lo dico per chi come me non lo sapeva prima, vuol dire pepita. Sì, noi pensavamo comunque ai nugget di pollo. Cioè. Però in effetti chicken McNugget è quella cosa lì, sono, sì, pepite di... Di pollo. Di morbidissimo, croccantissimo pollo. E quindi questo, sì. L'idea di poi impanarlo al meglio e trovare il modo per comunicarlo, però appunto ognuno penso la veda come vuole sull'arte. Credo che forse trovare la tua definizione serve più per capire cosa stai facendo e direzionare i tuoi sforzi personali più che guidare poi gli altri. Mm-hmm. Che comunque sia anche poi quello che in un certo senso ha guidato Club Chimera in questi anni, cioè di cercare la pepita di quello che si sta facendo e cercare di trasformarla in suoni in qualche modo. Ecco, sì. Quindi funziona. E, a proposito dello stare insieme, una domanda obbligatoria per questa puntata in questa stagione che ti faccio è: può essere, e lo è per te, uno strumento per stare insieme anche nell'assenza del lettore, della lettrice nel momento in cui scrivi? La scrittura può diventare una modalità, una ricerca di collettività? Per me assolutamente sì, ma perché per me, e di nuovo cambia per tutti, però è è una cosa che non può prescindere da chi legge, dal lettore, anche se magari è un lettore ipotetico. Per cui quando scrivo mi sento che sono sempre in dialogo e cerco sempre di leggermi e di immaginare qualcuno che legge. Nello specifico, tendenzialmente, la cotta del momento, la fidanzata. Quindi la mia lettrice normalmente è la mia fidanzata o qualche amico. E questo, quindi, anche magari se non ci sono, anche se c'è un'assenza, mette in relazione con le persone. Quindi io trovo che sia l'opposto che una cosa solitaria. Ovviamente perché io mi siedo così, altri si siedono diversamente. Quindi cambia. E questa ricerca di collettività, di relazionalità, è anche il perno su cui ruota il tuo testo, Pranzo al mare, che leggeremo tra pochissimo. E ci ruota però intorno anche a un'assenza, quindi è una ricerca costante che cerca di colmare questa assenza. Vuoi raccontarci qualcosa sul testo o partiamo? No, sul testo credo di non voler raccontare niente. Ci tenevo tanto, ci tenevo tanto a citare due miei amici che sono stati importantissimi quest'anno per me, che mi hanno aiutato un sacco a scrivere, e quindi voglio citare Gabriele Magro, che è uno scrittore incredibile e che prima o poi troverete in libreria, e un altro che si chiama Marco Caddia, che invece troverete già in libreria dentro una raccolta che si chiama Accento. No, una raccolta di Accento, che non so come si chiamerà, scusami Marco. Va però bene. Niente, ci tenevo, fine. Allora direi che possiamo partire con la lettura. Il testo è Pranzo al mare, scritto da Alessandra Peluzzi e letto da Clara Bortolotti e musicato, cercando appunto di in qualche modo tirarne fuori una pepita musicale, da me. Sarebbe piaciuto morire con l'indice incastrato nel gancio di una boa arancione, distesa su un materassino tra il cielo e il mare di Camoglie. E invece sono morta in un letto che non era mio, il giorno in cui non ho risposto al mio nome. Rosanna! Rosanna! Rosanna! La mia attenzione è tutta sulla consistenza del cuscino rosa. Si sgonfia, inesorabile, sotto la mia testa. Rosanna! Mi sono tuffata non appena ho realizzato che il materassino era bucato. Ho soffiato più forte che potevo e mi sono adagiata di nuovo sul mio fiato compresso. Scappa piano, gli ho detto. Voglio godermi il sole. Rosanna, cazzo! Quel cazzo mi convince a tornare a riva. E una pappina mi colpisce non appena attracco. Ma che figure mi fai fare? Sto su, dritta, nonostante il dolore. Resisto all'impulso di massaggiarmi lì dove le dita dure della mamma mi hanno colpito. Lei allora mi prende il braccio e mi mette di fronte al campanile dall'altro capo della passeggiata. Non eri mica tu, quella che già legge l'ora? È stato lo zio Augusto a insegnarmi l'estate scorsa. Tra i bambini della mia età sono l'unica che è capace. 12:07. E 7 minuti. E a che ora è il pranzo? Non rispondo. In certi casi l'ho imparato. È meglio una parola in meno che una in più. E non in tutti. Allora? 12:30. Mugolo. Fila, a cambiarti. Filo. Anche se la mamma non è arrabbiata davvero, si capisce dalla voce, lei non è come il papà. Lui sì, si arrabbia veramente. Lei perché bisogna, sennò i bambini diventano maleducati e corro verso le docce dei bagni. Le sue sberle sono per lo più minacce. A fermare la mano, ho origliato una volta mentre parlava al telefono, a fermare la mano non è tanto la paura di far male, quanto vedere che mi ritraggo e sollevo le braccia. Ma sapessi come scattano, come se li menassi dalla mattina alla sera, invece non li meno mai, non me la sento. Mi sfrego la pancia e le gambe come fanno le signore. L'acqua della doccia è gelida, più fredda di quella del mare, e in confronto l'aria rafferma della cabina è un abbraccio tiepido. Lascio cadere il costume. Qualcuno cerca di entrare, ma il chiavistello lo tiene fuori. Occupato! Ah, Rosanna, finalmente, maledetta bimba, chiama tuo fratello quando hai fatto. Lo zio Alfredo scompare oltre la persiana. Chissà se i grandi lo sanno che riesco a vederli oltre la persiana. Infilo i vestiti sopra la pelle fresca e calcio il costume in un angolo a inzuppare le vecchie assi. Sarà all'ombrellone, Massi. Scendo esitante dalla passerella, i miei piedi puliti. E dopo qualche passo inizio a correre. Massi! Massi è seduto sulla sdraio con le gambe a penzoloni. Riconosco i sandaletti blu scuro con le cuciture bianche e la musica che gracchia dalla radiolina portatile. Massi, forza, dobbiamo andare. La mamma ha anche detto una parolaccia. Afferro il telaio e sbuco con la testa sopra il drappo azzurro. Massi non c'è. E nemmeno la radiolina. Deve essersi trattato di un miraggio, mi dico. Come succede agli esploratori del deserto. Ma quella melodia. Massi, lo so che sei qui. Dai, che ci aspettano. Allungo l'orecchio, ma ormai c'è solo il mare. Sarà lì, nello sciabordio, che si è nascosta la musica. Corro e l'ombra del campanile mi insegue. Massi, dai! I sassi, in riva ci sono i sassi, scottano più della sabbia, piango di dolore se non pucci i piedi. E che sollievo, che sollievo! Quando li puccio. Signora, come si chiama l'amica della nonna? Ha visto Massi? Un'onda mi colpisce le gambe, quella parola mi affiora alle labbra, ma non sono cresciuta abbastanza nemmeno per pensarla. Massi? Domanda l'amica della nonna. Massimiliano, il mio fratellino. Rosina, è con la tua mamma il tuo fratellino. Ma lo zio, forza, vai a mangiare. Mi sprona, gentile. Ingoio la confusione con la fretta. Che ore si saranno fatte? L'orologio sul campanile segna le 12:07. Devo muovermi. Cerco una tappa d'ombra nella sabbia abbagliante e noto un grosso buco, largo come un ombrellone e profondo chissà quanto. Ma chi l'ha fatto quello? Ma non lo sanno che ci muoiono i bambini così. Raggiungo il bar tenendomene ben alla larga. Rosanna, la mamma ha l'espressione come le sberle che trattiene sopra la mia testa. Gli altri, lo zio Alfonso, la zia Luce, se ne stanno riuniti attorno ai tavolini rotondi, ravvicinati, così da disegnare il simbolo di un infinito ancora più infinito. E Massi non c'è. La nonna è già seduta, le caviglie gonfie infilate nelle ciabatte. Vien qui meco, fior di loto. Schizzo verso le sue braccia molli sotto lo sguardo duro di mamma. Nonna Rosanna! Portiamo lo stesso nome. Le bacio la mano come mi ha insegnato, senza baciarla. Sfioro la pelle verde e stringo un poco le dita. Lei mi ringrazia per la carineria e mi prende sulle gambe. Cosa aspettiamo a mangiare? La sua voce sopra la mia testa. Ma anche il papà, risponde la mamma. E allora iniziamo, ribatte la zia. E Massi, ma 1, 2, 3. Le sedie vuote sono 3. Ma viene anche Franco? Domando. Franco è il bagnino. Giocava a briscola col nonno. Mangiavano le noccioline, bevevano quella bibita arancione e dicevano cose che non capivo. Sia il nonno che Franco sono morti da un po', ma per un attimo me ne sono come dimenticata. Fortuna che nessuno, nemmeno la nonna, ha sentito la mia domanda. La mamma parla con la zia, la nonna parla con tutti e lo zio Alfio mi interroga sull'orologio. È stato lui a insegnarmi a leggerlo l'estate scorsa. Tra i bambini della mia età sono l'unica che è capace. Le 12:07, fisso l'orologio col quadrante di carta. Ma eppure avevamo detto 12, nota la nonna spazientita. E 8, così basta contare. Lo zio mi fa ridere. Ho sperato tanto che fosse lui il mio papà e non il mio papà. Ma dov'è il papà? E Massi? Sei fradicia! La nonna mi mette a terra. C'è una chiazza scura sul suo abito largo. Rosanna, rimprovera la mamma. Ma che sarà mai? Così impegna il tempo mentre aspettiamo i suoi uomini. La nonna mi sprona con una pacca sul sedere. Vatti a cambiare. Su. Un cenno di mamma. I pantaloncini si sommano al costume nell'angolo della cabina. Qualcuno bussa di nuovo, ma questa volta oltre alla persiana non c'è nessuno. Guardo giù, alla ricerca della sua testolina bionda. Massi è l'unico che non arriva alla persiana, ma è già scappato al bar, sono sempre così lenta. Mi infilo la gonnellina tutta sbilenca e corre, mentre corro l'immagine, i grandi che mangiano e la mamma che mi aspetta, il papà che è già arrabbiato. E invece mi sbaglio. Sono tutti in piedi. E Massi non c'è. Massi non c'è. Ma dove scappa da tutto il giorno? Ma se non è con Reno, con chi è? Il papà? L'ho tenuto d'occhio tutta la mattina. Ma che ore sono? Sarà a giocare col Marazzi. Mamma, la spiaggia è vuota. Mamma, Rosanna, non adesso. Era alle cabine, Massi! I grandi ammutoliscono. La mamma si inginocchia e mi prende il viso tra le mani. Ha gli occhi lucidi, con tutte le venuzze in risalto. Non ho mai visto i suoi occhi così. Si è ringraziato il cielo perché non l'hai portato qui. Ero nuda, mi difendo da quel tono inquisitorio. Tranquilla, Livia, dai, vedrai che è qui, Massimiliano, non è successo niente. Nel buco non c'è, lo zio ci raggiunge, trafelato. Grazie, Augusto, Rosanna l'ha visto alle cabine. Ma perché non viene a tavola? Comunque, quel buco bisogna che lo chiudano, con tutte le storie che fanno per un pallone, poi un buco di 1,5 metri nel mezzo della spiaggia. Rosanna, fammi il piacere, vai da Franco e digli che deve chiudere quel maledetto buco, non si può così, non si può. Franco? Io vado alle cabine, si offre lo zio. Ma non era morto? Bravo, tira due schiaffoni a Massimiliano e digli che è solo un assaggio a quel cretino. Mi fa paura, Franco, non voglio andare. Al tavolino, quando giocava col nonno, c'era sempre una scodella con le noccioline salate. Il nonno mi chiamava e me ne metteva una cucchiaiata nel palmo. E allora Franco diceva che quelle noccioline erano anche sue e che dovevo essere grata, che il nonno mi viziava, ma la vita non ti vizia. Devo proprio andare, imploro la mamma. Lei alza la mano come per darmi una papina e allora vado, corro, oggi non faccio altro che correre. Corro verso il trespolo dei bagnini. Franco è seduto lì, in cima, sulla sua sedia rossa. E in mare non c'è nessuno, ma che guarda, la spiaggia dovrebbe guardare con quei grossi buchi. Sono diventati due i buchi. Chi li scava che sono tutti a pranzo? Roba da matti. Bisognerebbe guardare sul fondo. Franco, chiamo dal basso. La mamma dice che i buchi in mezzo alla spiaggia sono pericolosi, si può coprirli. Lui mi guarda e si vede che è scocciato. Non gli piace lavorare, il papà lo dice sempre. Non gli piace lavorare ai bagnini, ma soprattutto a Franco. La mamma, digli alla tua mamma che se deve dirmi le cose può dirmele lei. Ora va, devo fare la guardia. Anche il mare è pericoloso. Un'onda mi accarezza le caviglie. Ho i piedi a bagno e per un attimo sembrano quelli di nonna. Con le unghie spesse, i malleoli cuciti in fondo alla carne come i bottoncini dei materassi. Poi l'onda si ritira e tornano normali. Franco guarda di nuovo il mare e non gli interessa niente che lì sotto ci sono io e che lì accanto ci sono i buchi e che nei buchi ci muoiono i bambini. Ci vorrebbe un'onda che facesse il mare nei buchi. Così che Franco gli desse un po' d'attenzione, invece ancora lì, vecchiaccia. Vado via e in confronto alla mia rabbia la sabbia non scotta più. Ritrovo la nonna ai tavolini, quando mi vede mi sorride, senza dire una parola mi arrampico tra le sue braccia. Fior di loto, che succede? Non rispondo per paura di piangere, io non sono triste, sono arrabbiata, dunque non mi va di piangere. La nonna lo capisce e mi accarezza il capo. Ma dopo un po' di silenzio non ce la fa più, le piace troppo parlare alla nonna. Anche le mie mani erano belle quando avevo la tua età, sai? Accarezza dita abbronzate con le sue, trasparenti. Davvero? Anzi, più belle, perché non mi mangiavo le unghie. Serro i pugni. Tra tutte quelle macchie e tutte quelle vene, tutte quelle grinze, sembrano come due boe compatte i miei pugni. Navigano e poi affondano tra le onde, Io non mi mangio le unghie. Ah no, le sputo. La nonna ride. E anche io, orgogliosa di averla fatta divertire. Il mare di pelle riprende la forma dei dorsi e delle dita. Si dischiude e... eccole. Le mie mani. Tra quelle della nonna. Sono diventate vecchie. Verdi e macchiate e fragili e grosse. Scatto via, mi divincolo da quel corpo flaccido. Cosa hai fatto? La nonna sorride al mio sguardo terrorizzato. Fior di loto, che succede? Sollevo i pugni davanti agli occhi. Le mie mani sono quelle di prima. La nonna è quella di prima. È tutto normale, tutto come prima. Il pianto mi ingrossa il petto, ma io lo spingo giù, chiudendo le spalle. Io non voglio piangere. La nonna mi cerca, mi allontano. Non voglio più confondermi. Il pranzo, mancano ancora tu. Vado a chiamare lo zio. Tiro dritto verso le cabine. Lo zio ha le cabine, no? Mi sembra di ricordare che sia lì, anche se non ricordo il perché. Lo chiamo e lui risponde: Rosina, dove sei? Le cabine sono disposte su due corridoi paralleli e poi uno che li taglia in mezzo e va giù verso il mare. Lo zio è da qualche parte in un corridoio diverso dal mio, perché nel mio non c'è. Lo chiamo e lui risponde: Zio Alfredo! Me l'ha insegnato lui a leggere l'orologio e io sono l'unica della mia età ad essere capace. Che ore sono? Se non è nel primo corridoio, è nel secondo, ma nel secondo non c'è. Lo chiamo e lui risponde: Zio Augusto! Me l'ha chiamato lui! Me l'ha insegnato lui a leggere l'orologio e io sono l'unica della mia età ad essere capace. Che ore sono? Se non è nel secondo corridoio, è nel terzo, ma nel terzo non c'è. Lo chiamo e lui risponde: Zio Alfonso, me l'ha insegnato lui a leggere l'orologio, ma se non è nel terzo è nel quarto. Zio, non risponde più. Zio! Io ho da piangere così forte che non riesco a stare in piedi. Leggo i numeri in cima alle cabine, in cerca della 45, la mia. O forse la 43, non ricordo. Ne provo una a caso, si apre, mi siedo sulla panca, troppo piccola per il sedere di chiunque, anche per quello di una bambina, e scoppio a piangere. Spero che qualcuno senta i miei singhiozzi e mi venga a consolare, ma non viene nessuno. A quest'ora in spiaggia non c'è nessuno. Nell'angolo della cabina il mio costume non c'è più, ci mancava solo questa. La chiazza è impressa nelle vecchie assi ai bordi nitidi e scuri. Il papà deve averlo trovato. Non sopporta che lasciamo il costume accartocciato in cabina, bagnato e tutto pieno di sabbia. L'ha trovato, l'ha lavato e l'ha steso. Ecco perché non viene a pranzo, è colpa mia. Mi devo scusare. Esco dalla cabina e chiudo la porta con un tonfo. La luce forte si riflette nelle lacrime e mi brucia gli occhi. Al bar non c'è più nessuno, ma... dove se ne sarà andata la nonna con quelle caviglie gonfie? E la mamma? Speriamo che stia meglio la mamma, speriamo che sia col papà e che non siano arrabbiati. Quando si arrabbiano tutti e due insieme è la cosa peggiore. In quei casi sono io contro tutti. Vorrei tanto un fratellino che mi aiutasse in quei casi. Due contro due, così sarebbe giusto. Invece mi hanno fatta unica apposta, per avere sempre ragione. Adesso se saltassero fuori io gli darei ragione. Non si lasciano i bambini da soli, ma se mi dicessero le loro ragioni, io gli direi che hanno ragione. E il papà sarebbe arrabbiato lo stesso, ma la mamma direbbe che sono stata brava, perché sono stata tutta sola e non ho avuto paura. E alla fine mi darebbe pure un abbraccio. Ma non la trovo. Non li trovo, né al bar, né all'ombrellone, forse ai buchi. Ecco, sì, saranno andati a riempire i buchi, visto che nessuno vuole decidersi a coprirli. Corro giù verso il mare, supero le file di sdraio e li vedo. I buchi sono ancora lì. E al posto di essere diventati pieni, sono diventati cinque. Chi è che li scava questi buchi? La mamma si arrabbierà un sacco quando si accorgerà che sono aumentati. Mi avvicino un po', perché la curiosità è troppa per resistere. Ma più mi avvicino... meno sono curiosa e più mi viene paura. Rosanna, mi volto di scatto, terrorizzata. Papà, lì di fronte, con le gambe magre, chiazzate di peluria nera e i pantaloncini salmone, non rosa, salmone. Non oso sollevare lo sguardo. Scusa, io lo so che ti fa arrabbiare quando lasciamo lì il costume, ma la mamma era in ritardo per il pranzo, non lo faccio più, prometto. A testimoniare il mio pentimento non mi proteggo nemmeno il capo. Attendo le papine che inesorabili si scaglieranno sulla mia testa. Fior di loto, ma che dici? Sono cose che capitano. Sbircio il suo viso da sotto dove mi trovo. Papà sorride e per consolarmi mi prende tra le braccia. Tremi tutta, che succede? Il suo petto nudo è viscido contro la mia guancia. I peli radi intorno ai capezzoli mi solleticano il viso. Ritrovo un po' di calma. Per fortuna che sei qui, io non trovo più nessuno. Mi accarezza la schiena e poi mi posa a terra. Le mie lacrime, come una medaglia al valore, inzuppano il petto della sua Lacoste verde. Mi prende la mano e andiamo verso il mare. Il pranzo, papà, si irrigidisce. Sono già le 12:07. Si guarda intorno, come se per trovare gli altri bastasse guardar meglio. Tipico di tua madre. Stringo forte la sua mano. Tu cerca qui in spiaggia, io controllo il ristorante. La sua mano grande, con le unghie tonde e i dorsi pelosi. No, papà, sono piccola, non posso restare da sola. Anche lui stringe. Hai polpastrelli ruvidi perché si mangia le unghie e le pellicine. Andiamo insieme, imploro, mentre la stretta si fa sempre più forte. Sempre più forte, sempre più forte, al punto di far male. Mi fai ma... aia, aia! Cosa abbiamo detto? Mi inginocchio, torcendo il braccio alla ricerca di un angolo che mi permetta di sottrarre la mano al dolore. Cosa abbiamo detto? Non lo so, non so cosa abbiamo detto. Cosa abbiamo detto? Il dolore è insopportabile, così forte da immobilizzare i singhiozzi. Cosa abbiamo detto? Ho detto, non lo so, non lo sai, non lo so. Mi molla, fa per colpirmi, ma io schivo, salto in piedi e corro via sulla sabbia gelata. Corro e sento che mi rincorre, ma quando scivolo e mi volto a guardare non c'è. Dov'è? Mi rialzo in fretta. La mano mi fa un gran male, tutta rossa e non sembra più mia. Raggiungo i ciottoli e il mare. Una signora è ancora lì, che prende il sole. Signora, io non trovo più nessuno. Signora Rosanna, che bello vederla. Mi guarda e sorride con gli occhi stretti perché dietro di me c'è il sole, ha visto male. Ecco perché mi ha chiamato in quel modo. Pensa che sono la nonna, ma sono io. Mi deve aiutare, c'è il pranzo e sono tutti arrabbiati. Istintivamente mi volto verso l'acqua. Eccolo lì, il mio materassino. È rosa in mezzo al cielo giallo e la musica, il rumore... Signora Rosanna, si sente bene? Mi volto, ma la signora non c'è più. Non c'è più nessuno, non c'è più niente. Solo la mia ombra curva e questo rumore fastidioso, sempre diverso, che mi ingombra le orecchie. Ruoto su me stessa, una o due o tre volte, e cado. Ho le ossa fragili e le braccia macchiate, blu, rosso. Provo a sfregar via i segni. La pelle sotto i polpastrelli si fa liscia come sabbia e poi scivola giù dalle ossa e sono di nuovo giovane. E mi intenerisco a guardarmi. Com'ero bella, come sono bella. Intorno è tutta sabbia, in ogni direzione, sopra e sotto. Mi sollevo di slancio e poi cammino a fatica. Ma chi ha parlato? Da quanto non camminavo? Nonna! Più mi avvicino alla fonte, più il rumore scema. Si trasforma in un ronzio e alla fine smetto di farci caso. Dove sono? Sono vecchia. Ho le mani vecchie e il fiato corto e un dente solo, amaro in bocca. Ho l'impressione di aver dimenticato qualcosa, ma cosa potrei aver dimenticato? In questo silenzio non c'è nulla. È una distesa di buchi, l'attraverso in bilico su strettoie di sabbia. Mi tremano le gambe, ora belle, ora vecchie, e non c'è fine ai buchi. E io, sugli argini, sbircio il fondo nero sporgendomi dalla sommità. Ecco dove sono andati tutti. Non posso far altro che entrarci. Anch'io. Mi sarebbe piaciuto morire con l'indice incastrato nel gancio di una boa arancione, distesa su un materassino tra il cielo e il mare di camogli, le chiappe a bagno in una pozzetta calda, i parenti che mi chiamano a riva. E invece sono morta in un letto che non era mio, sola. Che quelli che amavo se n'erano già tutti andati, dimenticati, e io per ultima. Sono morta il giorno in cui non ho risposto al mio nome. Rosanna! Chiamavano a riva per pranzo, magari pur persa. Mi sarebbe piaciuto lo stesso morire su quel materassino. Grazie mille. Ci siamo dimenticati di dare credits per la musica che abbiamo messo insieme, ma è principalmente dall'album, una serie di album di un artista che si chiama The Caretaker, che ha fatto 6 album sulla demenza che seguono i 6 stadi, e quindi si sfaldano, cioè la musica si sfalda nel corso degli album, che sono 6, quindi un sacco di ore, e noi abbiamo fatto una selezione di un po' di musica. Grazie. Ok. Volevi? No, volevo solo dire che era dedicato alla mia nonna Rosanna e basta. Grazie mille.